Maxi emendamento, stasera il voto con la fiducia al Senato, IVA al 21%, stretta sulle pensioni delle donne, sui mercati scende lo spread col Bund tedesco. Merkel, se fallisce l'euro fallisce l'Europa, la Germania intanto respinge il ricorso anti-Grecia degli euroscettici. Rom, la Commissione europea contro l'Italia, stop agli slogan razzisti dei politici. Venezia, pochi applausi, qualche fischio per il secondo film italiano in concorso, Quando la notte, di Cristina Comencini. Una buona giornata da Alessio Maurizi e dalla redazione in apertura. Dunque, torniamo sugli aggiornamenti che riguardano contenuti e cammino parlamentare della manovra economica. Il governo ha presentato il maxi emendamento. Facciamo il punto con Vincenzo Miglietta. Buongiorno. Sì, buongiorno. Aula del Senato alle prese dunque con il nuovo testo della manovra, si tratta della quarta versione da fine luglio. Con le novità di ieri il provvedimento acquista ulteriore impatto economico, sale infatti da 49,8 miliardi di euro a 54,2. Questa sera l'Aula di Palazzo Madama si esprimerà sulla fiducia chiesta dall'esecutivo, il testo passerà quindi alla Camera, si prevedono tempi brevi anche lì per la conversione in legge. Ma veniamo ai contenuti del provvedimento, aumenta l'IVA, torna il contributo di solidarietà, interviene sulle pensioni. Per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto, si modifica l'aliquota più alta con il passaggio dal 20 al 21%, la differenza di gettito, spiega l'esecutivo in un comunicato, va al miglioramento dei saldi del bilancio pubblico. Il capitolo previdenza poi vi è l'adeguamento delle pensioni delle donne nel settore privato a partire dal 2014, quindi il contestato super prelievo viene ora previsto fino a pareggio di bilancio del 3% sopra i 300.000 euro, i contribuenti interessati sono 34.000. Sempre sul fronte fiscale vi è la proroga dell'accertamento del condono del 2002, si allenta infine la norma della manovra che prevede il carcere per chi evade oltre 3 milioni di euro, perché scattino le manette, l'ammontare dell'imposta evasa dovrà essere superiore al 30% del volume d'affari. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo. E dunque questi contenuti della manovra in gran parte già anticipati ieri sera dalla stampa. Sul fronte politico però non si attenuano le critiche delle opposizioni che bocciano la nuova versione della manovra del governo. Un provvedimento iniquo ed inefficace, opposizioni allineate nel bocciare l'ennesima versione della manovra e nel criticare la decisione di blindarla con la fiducia. La capogruppo del PD al Senato, Angela Finocchiaro. Continuiamo a chiederci come mai il governo abbia atteso dall'11 di agosto fino ad oggi per presentare una manovra definitiva, rispetto alla quale abbiamo continuato in tutte queste settimane di lavoro a sostenere che la manovra era del tutto insufficiente. Le opposizioni, che pure hanno mostrato grande senso di responsabilità, non sono riuscite a incidere su un governo indeciso, confusionario, balbettante, rissoso. Dura anche la posizione del terzo polo, secondo il quale solo un nuovo governo potrà dare credibilità al paese, mentre Antonio Di Pietro dell'Italia dei Valori si appella al Quirinale affinché sciolga le Camere. Ma il centrodestra difende la manovra così come la scelta di porre la fiducia, una scelta compiuta per rispettare i tempi e le scadenze internazionali. Il capogruppo del PDL al Senato, Maurizio Gasparri. La necessità di rafforzare la manovra, che nelle ultime ore era stata auspicata anche dal Presidente della Repubblica, favorisce la decisione del Governo di introdurre ulteriori misure sulle quali il rispetto dei tempi suggerisco evidentemente il ricorso alla fiducia. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E dunque la nuova versione della manovra economica in gran parte diversa dalla quella che era la prima stesura, la versione originale. Ne parliamo con Dino Pesole del Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno. Oggi i mercati sono positivi, naturalmente la reazione dei mercati è importante, ricordiamo che la manovra è stata approvata proprio sulla spinta anche di una grossa pressione, di una crisi sostanzialmente di borsa questa estate. Dino, quali sono a questo punto, facciamo un identikit, le voci grosse dalle quali alla fine il governo ha deciso di andare a pescare i soldi per i conti pubblici? È una manovra che già prima dell'ennesima modifica, siamo all'edizione quarta credo ormai da agosto, da quando è stata varata, è una manovra che ancora una volta pare molto squilibrata sul fronte delle entrate. E dunque buona parte delle risorse, oltre il 60%, se facciamo poi l'analisi cumulata anche della manovra di luglio, perché poi anche quella c'è, quindi due manovre insieme spostano attorno al 65% di risorse e le individuano sul fronte delle entrate. Quindi mi sembra che la nuova versione della manovra confermi, anche, anzi rafforzi, perché l'aumento dell'IVA dovrà garantire almeno 4 miliardi di nuove entrate l'anno, rafforza l'impianto della manovra che, come spesso accade quando si tratta di far fronte all'emergenza attraverso provvedimenti che devono essere a carattere di urgenza, si fa attraverso le entrate. Forse sarebbe stato auspicabile intervenire maggiormente sul fronte della spesa corrente, come ci invita a fare la Commissione europea, la Banca d'Italia e molti altri in sede internazionale. Dino, lasciando da parte giudizi più politici sulla equità di questa manovra, su cui sicuramente si parlerà anche nei prossimi giorni, sarà sufficiente secondo te proprio per l'Unione Europea, nel contesto anche dei mercati e per quanto riguarda il giudizio della BCE, della Banca Centrale Europea, questa manovra, oppure è prevedibile che ci possano essere degli altri interventi in futuro? Questa è la questione cruciale, decisiva. Finora le manovre correttive che abbiamo varato, e non solo noi, pensiamo ad esempio a chi sta anche messo peggio di noi come la Grecia, non sono bastate finora a invertire la tendenza, a rassicurare i mercati, il che fa ritenere che quella in atto sia una crisi che va forse anche al di là e oltre le manovre correttive che i paesi possono mettere in campo. È una crisi probabilmente più generale che riguarda, a mio avviso, fondamentalmente un punto a livello europeo, e cioè qui la scommessa è se finalmente l'Europa decide di battere un colpo e darsi finalmente una nuova governance politica oltre che economica, e dunque questa è la risposta probabilmente che i mercati si attendono. All'interno di un quadro così complicato, sappiamo i problemi con la Germania, la Francia e le difficoltà che ci sono, l'Italia sconta insieme, come anche accadde purtroppo molti anni fa nel 92, il fatto che non siamo riusciti a varare riforme incisive quando occorreva farle, e dunque noi scontiamo ora insieme anche la mancanza di una strategia di politica economica che vada al di là dell'emergenza. Quindi se sarà sufficiente o no lo vedremo nelle prossime settimane, ovviamente l'auspicio è che lo sia, perché sennò altrimenti occorrerà fare una manovra aggiuntiva e nuovi sacrifici. Sì, e quindi questo però non sarebbe certo auspicabile. Grazie Dino Pesole, grazie. Restiamo però a parlare d'Europa e ci spostiamo in Germania. L'euro è il garant eines einigen Europas. Se fallisce l'euro, fallisce l'Europa, queste le parole usate oggi per ribadire questo concetto dalla cancelliera tedesca Angela Merkel, che sentite in sottofondo durante un suo intervento al Parlamento tedesco. Intanto sui mercati rallenta la corsa degli spread tra BTP decennali e proprio i Bund tedeschi, che ieri viaggiava oltre 360 punti, oggi è in calo sotto i 350 punti. Sentiamo qual è oggi la situazione in borsa con Deborah Rosciani. Sì, buongiorno, c'è da dire che la Banca Centrale Europea è stata stamattina di nuovo particolarmente attiva sul mercato secondario con acquisti di BTP e anche di bonus spagnoli, proprio nel tentativo di stabilizzare gli spread con i corrispondenti titoli di Stato tedeschi. Secondo alcuni operatori gli acquisti si sono concentrati e si stanno concentrando soprattutto sui titoli italiani a breve durata, mentre gli acquisti di bond spagnoli sono di minore entità perché è inferiore lo spread dei bonus rispetto appunto ai bund tedeschi. Comunque la situazione si è leggermente rasserenata rispetto agli ultimi giorni. Stamattina abbiamo un balzo di circa 2 punti percentuali sulla piazza tedesca, anzi più 2,78 adesso, Parigi più 2,60, Londra più 1,92% e Milano recupera un più 3% dopo appunti cali molto profondi di venerdì, lunedì e anche di ieri. I titoli che stanno riprendendo quota sono quelli che sono stati pesantemente bastonati nelle ultime sedute, i titoli del settore industriale e i titoli del comparto bancario. Oggi ancora una volta protagonisti della giornata sono tutti e tre i titoli della galassia Fiat, più 6% per i titoli SPA, più 6% per i titoli Exor, Fiat Industrial più 3,95, Pirelli guadagna 6 punti, Fondiaria più 4,54, Tosse più 4,37. Nel settore bancario i migliori sono MPS più 4,34 e Unicredit più 3,77%. Ricordiamo anche il movimento sul mercato valutario da monitorare in questi giorni, soprattutto dopo la decisione di ieri della Banca Nazionale Svizzera

Buongiorno Alessio. In realtà le agenzie sono state un po' sfumate nei toni. L'accoglienza è stata in realtà pessima. Le reazioni del pubblico le sentiremo più tardi, perché finora è stata anticipata stampa solo per i giornalisti. I critici però hanno regalato al film tanti bue, tanti fischi a fine proiezione, ma soprattutto molte risate durante alcune scene drammatiche. Lei ha contrattaccato in conferenza stampa: è un film che fa emozionare e nei festival, ha detto, si ha paura delle emozioni. Quindi ha difeso il suo film, che è stato davvero mal accolto dai critici. Appunto, sentiremo come reagirà il pubblico. Arriva però in sala oggi un film importante, che è l'altro film in concorso, che è Terraferma di Emanuele Crialese. Ecco come lui attende le reazioni degli spettatori, questa volta al cinema. Sentiamolo. Il fatto di sentire che c'è attesa mi dà un coraggio, e mi dà soprattutto un coraggio di continuare a sentirmi libero di fare film che non debbano accontentare tutti, per esempio, che non debbano far ridere o che non debbano far piangere o che non debbano essere qualche cosa che uno si aspetta. E il mio obiettivo e la mia grande, insomma, il mio gioco anche, perché è anche molto un gioco quello che faccio, è quello di sorprendere. Marta, ecco Alessio, non so se hai altre curiosità, insomma, qui da Venezia. No, direi che, insomma, abbiamo parlato dei due film italiani, questo mi sembra già abbastanza. Grazie, grazie Marta, ti risentiremo avanti, sicuramente nelle altre edizioni di GR24, la nostra inviata al Festival del Cinema di Venezia. Adesso invece parliamo di tutt'altra questione, di immigrazione, perché c'è un monito che arriva da parte della Commissione Europea all'Italia, in realtà arriva dal Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, Thomas Hammerberg, e riguarda i diritti umani degli immigrati in Italia, in particolare dei Rom. Sentiamo. Sviluppare le norme penali contro i reati di matrice razzista, così da porre fine al continuo uso di slogan contro immigrati e Rom da parte dei politici. La strigliata all'Italia arriva dal commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, Thomas Hammerberg. L'ultimo rapporto stilato dall'organizzazione di Strasburgo è critico. Quasi nulle le misure adottate negli ultimi 3 anni per garantire il rispetto delle minoranze. Hammerberg aveva visitato il nostro paese a maggio, riscontrando gravi mancanze. Per il commissario, il trattamento riservato a Rom ed immigrati costituisce la cartina al tornasole sull'effettivo rispetto degli standard richiesti dal Consiglio d'Europa ai Paesi membri. Barbara D'Amico, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora la cronaca, iniziamo da Bologna, dove sono morte ieri sera le gemelline siamese che erano ricoverate al Policlinico Sant'Orsola. Sentiamo. Non ce l'hanno fatta Lucia e Rebecca, le gemelline siamesi unite al torace e all'addome con un unico cuore e fegato, nate il 25 giugno scorso a Bologna. L'ultimo bollettino medico parlava di un progressivo aggravamento delle condizioni generali. Tutti gli accertamenti eseguiti durante la loro degenza avevano tra l'altro rivelato le difficoltà di un intervento di separazione. Le loro condizioni si erano già aggravate il 29 luglio scorso. In un primo momento le terapie per garantire il mantenimento delle loro funzioni vitali erano risultate efficaci. Poi la situazione si era nuovamente aggravata. Un successivo bollettino del 1 agosto parlava di una situazione clinica sostanzialmente recuperata. Al compimento del secondo mese di vita, le gemelline erano infatti cresciute e si muovevano spontaneamente pur con le limitazioni della loro condizione. I genitori, una coppia del Ravennate con altri 2 bimbi piccoli, avevano saputo dopo un'ecografia che le gemelline erano unite, ma avevano comunque deciso di portare a termine la gravidanza. Nate premature alla 30ª settimana, dal giorno del parto Lucia e Rebecca sono state assistite 24 ore su 24 da medici e infermieri fino all'ultimo fatale aggravamento. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Una nuova perizia relativa alle analisi sulle tracce di DNA al centro del processo d'appello a Raffaele Sollecito e Amanda Knox per l'omicidio di Meredith Kercher è stata chiesta stamane dai pubblici ministeri. Il sostituto procuratore Emanuela Comodi ha parlato di dati oggettivi che rendono irrimediabilmente lacunoso il lavoro svolto dagli esperti nominati dalla Corte. Ha quindi chiesto che vengano analizzate con kit di ultima generazione le tracce trovate sul coltello. Contrari gli avvocati delle difese, favorevole invece i legali della famiglia Kirchner, così uno dei legali di Amanda è a seguire l'avvocato della famiglia di Meredith. La ragione del no è dettata dall'assoluta irrilevanza dei nuovi accertamenti che si vorrebbero richiedere. La completezza e l'approfondimento dei lavori dei periti è assolutamente incontestabile. Avete anche accusato, diciamo, la procura di fare un po' un gioco strano, cioè di dire prima no a nuovi approfondimenti, adesso di chiederli? Ebbene, Beh sì, è come ho detto uno dei tanti paradossi di questo processo, perché ci si oppone fermamente a un nuovo accertamento sulla prova genetica e poi invece lo si ritiene assolutamente insoddisfacente nonostante si sia aggiunto al materiale già a disposizione della Corte. Stante il fatto che la nuova perizia è stata fatta e che secondo noi è incompleta, chiediamo che ci sia un'integrazione, quindi la valutazione della difesa, che addirittura ha parlato di coerenza, ma sul punto tralasciamo, è in riferimento alla necessità di effettuare un nuovo accertamento, ma stante il fatto che la Corte ha deciso di farlo e che a noi appare assolutamente generico ed incompleto, è necessario completarlo e integrarlo. Solo questa è la motivazione. E ora le notizie dall'estero. In India una bomba è esplosa nella hall dell'alta corte di Nuova Delhi, un grande complesso giudiziario al centro della capitale indiana. Il bilancio ancora parziale di 9 morti e 40 feriti. Per la seconda volta in 3 mesi il tribunale è entrato nel mirino dei terroristi ed è scattata naturalmente l'allerta. E ora in Libia il colonnello Gheddafi si nasconderebbe ancora nel sud del paese e all'estero starebbe inviando invece oro per reclutare ancora mercenari dal Chad e dal Mali. È l'ultima ipotesi, mentre in queste ore è in stallo l'attacco alla roccaforte di Bani Walid. Marco Giaconi del Centro Studi Strategici. È un'ipotesi altamente possibile. L'oro soprattutto, perché insomma nelle economie del deserto la carta moneta è poco conosciuta. L'oro servirà certamente a fare quello che ha fatto all'inizio della rivoluzione del CNT a Bengasi, a comprare a caro prezzo peraltro, perché le tariffe erano piuttosto elevate, a comprare nuovi elementi da lanciare nel fuoco contro le forze del CNT. È molto probabile e certamente Gheddafi fin dall'inizio ha sempre creato situazioni di contrasto, di ambiguità anche durante i primi lampi della rivolta del CNT a Bengasi, ed è un osso davvero molto duro. Sono trascorsi quasi esattamente 10 anni dall'attentato dell'11 settembre del 2001 a New York. Oggi Ground Zero è un grande cantiere a cielo aperto dove 5.000 operai sono a lavoro per completare il progetto di ricostruzione e la Freedom Tower in piedi per ora solo a metà. Sarà alta 1.176 piedi come la data dell'indipendenza. Il Made in Italy è in prima linea nella costruzione di questo edificio con una piccola media impresa che ha trovato la soluzione prima di tutti gli altri competitors internazionali. Si tratta della Fassi Group, che produce gru nel Bergamasco. Sentiamo Giovanni Fassi al microfono di Anna Marino. La ricostruzione è molto italiana, in quanto il contractor che la sta costruendo è un italo-americano. Noi, in contatto con questa impresa, abbiamo presentato un progetto che, penso, a differenza di altri, rispettava poi le loro esigenze. E il tutto è partito logicamente con delle gare che questo contractor ha fatto a chi presentava la migliore proposta. Quando è iniziata l'avventura? L'avventura è iniziata circa 4 anni fa e si è portata a compimento all'incirca 3 anni fa. È una cosa anche un po' particolare, perché sono delle piattaforme che sono all'interno della Freedom Tower che salgono con il salire logicamente della torre stessa, per cui vengono alzate mano a mano, di piano in piano, all'interno, infatti non si vedono dall'esterno, e all'interno fanno la distribuzione di tutti i materiali di costruzione. Voi siete produttori di gru? Sì, a Bergamo. La nostra produzione è tutta italiana, però esportiamo in tantissimi mercati, tra cui logicamente gli Stati Uniti. In pratica la vostra soluzione cresce col crescere della Freedom Tower? Le nostre gru arriveranno fino all'ultimo piano. Da quanto tempo siete sul mercato? Dal 1965, oggi siamo in circa 60 paesi nel mondo, per cui copriamo tutti e 5 continenti. Noi abbiamo dei tecnici a New York che nel momento in cui una di queste gru, visto che lavorano 24 ore al giorno, si ferma, devono essere pronti a farla ripartire nel più breve tempo possibile. Grande rispetto e grande professionalità per la ricostruzione di un luogo storico. Ed è tutto per questa edizione di GR24. Vi lasciamo a Italia in controluce. Alessio Maurizio in studio, Roberto Scaltritti in regia. Vi augurano buona giornata. GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.